Platone, La Politeia, libro sesto. Continuando quindi gli dissi: i filosofi, caro Glaucone, e quelli che non sono filosofi, finalmente ci hanno mostrato con indagine lunga, giunta ora a conclusione, l'uno e l'altro, la propria natura. Certo, rispose, non era possibile percorrere più breve via. Pare di no, soggiunsi. In ogni caso, mi fa l'impressione che questa scoperta sarebbe avvenuta meglio se avessimo dovuto trattare questo solo argomento e se non ci rimanesse ancora da affrontarne tanti altri. Non dobbiamo forse vedere bene in che cosa differisca la vita ingiusta dalla giusta? E allora, mi domandò, che cosa ci rimane adesso? Nient'altro, replicai, che la successiva questione. Filosofi, dunque, sono quelli che hanno potenza ad attingere ciò che è eterno, immutabile e a se stesso identico. Quanti invece non hanno questa capacità, ma sono bensì errabondi, quasi vacanti, nella pluralità e in ciò che per ogni guisa tramuta, costoro non sono filosofi. Ammesso questo, quali dei due dovranno essere i reggitori di uno Stato? Cosa ti dovrei rispondere per dare degnamente un giudizio su questo problema? Dicendomi che dovremmo preporre quale custode chi manifesta speciale attitudine a custodir leggi e istituzioni in una città. Giusto, rispondeva. Ma, dissi, la seguente questione è ben chiara. Chi deve custodire qualcosa? Un cieco o chi ha gli occhi buoni? E come vuoi, rispondeva, che non sia questione chiara. E in nulla certo differiscono dai ciechi questi uomini la cui mente ignora al tutto che le singole cose hanno una loro oggettività nell'essere. Quanti nella loro anima non posseggono esemplare alcuno, quanti non hanno facoltà di volgere lo sguardo, come fanno i pittori, verso il più vero esemplare, e ad esso, alla sua trascendenza, continuamente riportarsi e quello contemplare quanto più perfettamente è possibile. Così i pittori, né diversamente il legislatore quando deve scrivere un codice di leggi, queste nostre leggi terrene, il rapporto col bello, col giusto, col buono, il medesimo criterio poi per mantenerle illese quando si tratta di conservare quelle già esistenti. Disse lui, non c'è davvero nessuna differenza. E metteremo allora questi ciechi quali custodi? E non piuttosto chi conosce nell'essere la pura oggettività di ciascuna cosa? Chi, d'altra parte, per esperienza non è inferiore in nulla agli altri? Chi, insomma, non rimane al secondo posto in nessuna virtù? Ma sarebbe una vera stranezza, rispondeva, andare a scegliere altre persone, tanto più poi se questi custodi non la cedono nemmeno nelle altre capacità. D'altra parte, il coefficiente certo più importante si dimostra tutto a loro vantaggio. Se è così, cominciamo dunque a dire in qual modo una medesima persona potrà adunare in sé pratica d'esperienza e insieme le qualità speculative del filosofo. Cominciamo pure. Ciò che si diceva in principio, in primo luogo, cercar di conoscere alla perfezione la natura del filosofo e, penso io, una volta messo in luce questo problema, potremo convenire senz'altro che la medesima persona è in grado di raccogliere in sé tali opposti requisiti, così pure che i filosofi, non altri, debbono essere i capi della città. Come? Siamo d'accordo ormai su questo punto in rapporto alla natura dei filosofi, che sono cioè innamorati di cognizione, e cognizione che possa svelare il mistero di quell'oggettiva esseità che eternamente è, quell'esseità che non va errabondo e vagante in ciclo di generazione e di morte. Siamo già d'accordo. Ma anche, continuai, d'accordo che di quella tutta intera sono innamorati e che per quanto dipende dalla loro volontà non ne trascurano parte né piccola né grande, né di gran conto né di piccolo conto. Del resto, già precedentemente abbiamo messo in luce la cosa parlando di chi è cupido d'onori e di chi è innamorato. Hai ragione, rispondeva. Devi allora considerare quanto segue. Se cioè, oltre a queste qualità, quelli che saranno un giorno, quali dicevamo, non debbano aver naturalmente ingenito, che altra qualità? L'orrore per ogni menzogna e, per quanto sta in loro, il proposito di non accoglierla volontariamente in se stessi. Odiano la menzogna e amano la verità. Probabile, rispondeva. Eh no, mio caro, non è soltanto probabile, è una vera e propria necessità. Chiunque è inclinato naturalmente all'amore verso qualcuno dovrà perseguire con entusiasmo ogni cosa affine e familiare alla persona amata. Giusto, ma potresti trovare cosa più familiare alla sapienza che non sia la verità? E come? Disse lui. Ma è possibile che un amante di sapienza, un filosofo, cioè, sia di natura uguale a quella di un amante di menzogna? In nessun modo. La persona, dunque, essenzialmente amante di cognizione, deve, fin dai primi anni, tendersi desiosa verso ogni verità. Sì, senza dubbio. Sappiamo in ogni caso che in un uomo, la cui passione è fortemente inclinata verso un'unica cosa, gli altri desideri sono più deboli, come corrente verso altro luogo deviata. Sì, e allora? Allora l'uomo, la cui passione è come corrente rivolta verso la cognizione e verso ciò che ad essa è più simile, penso, sarà interamente rivolto al piacere dell'anima sola per se stessa. Invece i piaceri ottenuti per mezzo del corpo verranno in lui estenuandosi, se sarà veramente filosofo e non apparenza di filosofo, necessariamente. E se tale, sarà anche temperato in interiore armonia, per nulla avido di denaro. I motivi per cui si va in cerca del denaro, sperpero, prodigalità, non hanno alcuna attrattiva per il filosofo. Così. Del resto c'è un'altra cosa, la seguente, alla quale bisogna fare attenzione se si tratta di comprendere quale natura sia filosofica e quale non lo sia. Che cosa? Che non ci sfugga qualche bassa tendenza in quella natura. Oh, nulla è così contrario come la meschinità in uno spirito destinato a tendersi tutto all'universo e totale realtà, divina e umana. Verissimo, rispondeva. Un pensiero allora di cui è caratteristica la sublime contemplazione di tutto il cumulo dei tempi, di tutto il regno sterminato dell'essere, credi che ritenga la vita umana degna di qualche riguardo? Impossibile, disse lui. E quest'uomo stimerà forse la morte terribile cosa? No, niente affatto. Già, una vile natura e ignobile non avrà mai partecipazione di verace filosofia. Non mi pare. Senti allora, una natura armoniosa, immune da cupidigia di denaro, immune anche da ogni sorta di ignobili tendenze, da ogni vanità, da ogni viltà, può questa natura diventare ingiusta e difficile a trattarsi? Non è possibile. Allora, fin dai primi anni, quando consideri una natura filosofica o meno, dovrai guardare se sia equanime e affabile, oppure difficile e selvatica. Oh, certo, ma nemmeno dovrai trascurare un altro carattere, così credo. Quale? Se docile o riluttante allo studio. Puoi attenderti che si possa amare una cosa la cui operazione si risolve in contrarietà e nella quale poco si conclude? Non è possibile. E cosa avverrà poi se non sarà in grado di conservar nulla di quanto ha imparato, se dimentica ogni cognizione? Quest'uomo non finirà per restar vuoto ad ogni sapere? Come no? Nel suo vano sforzo non credi che sarà costretto a disgustarsi con se stesso e con la sua fatica? Come no? Quindi non dovremo mai scegliere, nel novero delle anime atte ad amoroso uso di sapienza, un'anima che prontamente oblia, bensì capace di ritenere, non c'è dubbio. Eh sì, soltanto un'anima contraria a mosaica disciplina, un'anima disordinata potrà nutrire in sé dismisura e confusione. Sì, certo. E ritieni che la verità sia affine alla confusione o alla misura? Alla misura, già. Cerchiamo dunque una mente che, oltre alle altre qualità, sia conscia naturalmente di misura e piena di grazia, una mente che possa venir condotta da naturale indole e contemplare ad ogni singola cosa l'oggettivo essere. Come no? Senti allora, non ti par forse che abbiamo esaminato le singole doti nel loro insieme tutte necessarie per un'anima che debba sufficientemente e completamente attingere l'essere. Eh sì, è conseguenza del tutto inevitabile, rispondeva. E ti pare allora che si possa svalutare simile attività? Oh, nessuno potrà attendere a quest'amoroso uso di sapienza se non sia per natura fornito di tenace memoria, disposta allo studio, magnanimo, dotato di grazia, amico e affine alla verità, alla giustizia, alla fortezza, alla temperanza. Oh, nemmeno Momo in persona, rispondeva, troverebbe da ridire su ciò. Ma, conclusi, a uomini forniti di simili qualità, una volta giunti per educazione e per età a completo svolgimento spirituale, non ti sentiresti da affidare, e soltanto ad essi, il governo della città? E Adeimanto, caro Socrate, rispondeva, se si tratta di questi argomenti, nessuno sarà capace di trovar nulla da opporti. Ma, vedi, ogni volta che ti si sente parlare su tali problemi, si prova sempre un'impressione di questo genere. Si rimane con la convinzione che, traendo profitto dall'inesperienza nostra nell'arte di interrogare e di rispondere, la tua parola conduca insensibilmente l'argomento a deviare in ciascuna interrogazione che fai. Avviene poi che, queste piccole deviazioni accumulandosi, finita la discussione, appare manifesto un grosso errore, una contraddizione con le iniziali premesse. È qualche cosa di simile a ciò che accade quando c'è un bravo giocatore di dama. Chi non raggiunge la bravura di questo avversario finisce per trovarsi con le pedine circondate e non può più fare movimento alcuno. Allo stesso modo i tuoi interlocutori finiscono per trovarsi circondati e non sanno più cosa dire, per opera di questo nuovo gioco, non certo con le pedine, ma con la parola. Perché la verità, nonostante tutto, non sta affatto nella tua tesi. E dico questo considerando il caso che abbiamo qui presente. Ora, vedi, ti si potrebbe dire che in teoria nulla c'è da opporre alle singole tue interrogazioni. Nel fatto, tuttavia, si scorge benissimo una cosa. Quanti si sono dedicati alla filosofia, non solo per averne un'informazione generale a scopi di cultura, ma quanti consumano in questo studio opera e tempo assai lunghi, i più finiscono per diventare uomini stravaganti, anche se non si debbono dire veri e propri malvagi. Invece gli spiriti più eletti, in seguito a questa attività che mi stai celebrando, subiscono pur sempre un influsso deleterio e diventano inutili alla loro patria. Io stetti a sentire, poi dissi, e credi che chi afferma questo affermi menzogna? Non lo so, rispose, sentirei volentieri la tua opinione. E allora è mia opinione che questa gente dica il vero. Ma come possono armonizzare le due affermazioni? Tu dici che gli stati non avranno riposo in tante sciagure prima che i filosofi ne prendano la reggenza. D'altra parte, questi stessi filosofi, siamo d'accordo, non contano nulla nella vita d'uno stato. La tua domanda, gli dissi, richiede una risposta detta per mezzo d'un racconto simbolico. Tu, rispondeva, ma non hai, credo, l'abitudine di parlare per simboli. Ti burli di me anche, dopo avermi ingaggiato in discussione così difficile, ma ascolta invece il mio racconto simbolico. Vedrai del resto ancor meglio con quanta difficoltà arrivo a esprimermi per via dei simboli. La condizione di questi spiriti eletti negli stati è tragica tanto che non ce n'è un'altra che sia pari. Per rappresentarne le caratteristiche e dirne parola di difesa è necessario raccogliere elementi d'ordine diverso e molteplici. Del resto i pittori in questo modo dispongono animali, metà capri e metà cervi, e dipingono altre simili figure favolose, mescolando elementi desunti da più parti. Immagina dunque questa cosa qui pressappoco come può avvenire in un gruppo di molte navi o anche in una nave sola. C'è un uomo ed è padrone d'una nave, grande e forte, supera di gran lunga quanti viaggiano imbarcati su quella nave, ed è anche un po' sordo, la sua vista, come l'udito, poco buona. Come vede e sente poco, così poco capisce dei problemi inerenti alla navigazione. Ci sono ancora gli uomini dell'equipaggio che sono in continue discordie l'uno con l'altro per il governo della nave, e ciascuno crede di dover governare lui quella nave, e nessuno ha mai appreso l'arte del pilota. Nessuno può mostrare chi sia stato il suo maestro, nessuno il tempo dedicato a diventare pilota. Inoltre, la ciurma afferma che non si può nemmeno imparare quest'arte. Di più ancora, se qualcuno sostenesse che la si può imparare, sono pronti a ucciderlo. E intanto la ciurma si è messa intorno a lui, al nostro padrone, e sempre, con suppliche e con ogni mezzo, insiste perché conceda il timone. Avviene talvolta che taluni non arrivano a far persuaso il loro uomo, altri compagni invece ci riescono meglio. Allora gli uni o uccidono gli altri o li cacciano via dalla nave, in quanto al nostro buon uomo, il padrone della nave, provvedono con mandragora, con ebbrezza o con altro qualsiasi mezzo a metterlo in condizione di non nuocere. Così ottengono il governo della nave e possono far man bassa su quanto c'è di buono, e la navigazione procede, mentre simili capitani bevono e mangiano senza misura. Procede come da aspettarsi proceda con simile gente. Ma c'è di più. Lodi di ogni genere, titoli onorifici, uomo di mare, pilota, esperto in cose di navigazione, il tutto riservato a chi è bravo in prestare aiuto per acquisto di predominio, sia consentendovi il padrone, sia per averlo costretto a violenza. Chi non è atto lo colmano di vituperi, ritenendolo uomo inutile, e tutto senza aver la più pallida idea di quello che sia un pilota. Il vero pilota deve tener conto del tempo, delle stagioni, del cielo, degli astri, del vento, di tutti quegli elementi che alla sua arte appartengono, seppur vorrà riuscire veramente a comandare la nave. Tanto più che ci può essere, o anche ci può non essere, il consenso dei compagni di navigazione. E comunque c'è, pur sotto questo rapporto, una teoria e una pratica. Ma loro credono che non si possa acquistare né questa né quella, e insieme l'arte del timoniere. Questa la condizione che c'è a bordo. E non credi che il sincero pilota, essi che navigano in condizioni sì miserande, lo chiameranno un uomo che parla dal nuvole, un chiacchierone, un uomo che non serve a nulla. Purtroppo, rispondeva Adeimanto. Del resto, dissi, non credo che avrei bisogno di vedere la spiegazione del mio racconto simbolico, udire insomma come risponda alla condizione in cui si trovano negli stati i veri filosofi. Tu stesso capisci a cosa voglio accennare. Purtroppo. In conseguenza dovrei insegnare il mio racconto simbolico a quel tale che esprime la sua meraviglia perché i filosofi non sono accolti con onore negli stati, e persuadilo pure che più grande meraviglia sarebbe se fossero con onore accolti. Sì, glielo insegnerò. E al tuo interlocutore devi dire che ha ragione. Gli spiriti più nobili, tra quanti attendono a filosofia, sono veramente inutili alle genti, ma devi rivolgere la colpa di questa inutilità non sugli spiriti eletti, ma su quanti non sanno far uso di questi eletti. Non corrisponde alle condizioni naturali che il nocchiero si volga a supplicare i compagni di navigazione perché da lui si lascino governare. Così, nemmeno che i sapienti vadano alle porte dei ricchi, e chi ha inventato questa bella cosa ha detto menzogna. La verità invece è contraria. Sia ricco o povero l'ammalato, è lui che deve recarsi in casa del medico. Allo stesso modo, chi deve essere sottoposto alla disciplina di qualcuno, vada da chi è in grado di esercitare autorità, e questo se si vuole ottenere qualche profitto. Ma chi è superiore non deve cominciare a pregare chi è inferiore. Certo, assimilando i politici d'oggi ai nocchieri di cui ora dicevamo, non commetterai errore, come d'altra parte i politici, comunemente ritenuti inutili e con la testa nelle nuvole, a veri piloti. Giustissimo, rispondeva. Da tutto ciò proviene una conseguenza, ed è cosa che si spiega bene. Non è facile in genere che una nobilissima attività acquisti giusta fama presso chiunque ne persegua una opposta. Ma qui invece il disonore supremo proviene alla filosofia precisamente da quelli che fanno dichiarazione di coltivarne lo studio. Sono appunto quelli che spingono l'avversario della filosofia a dire che gente spregevole ne fa professione, e così ricevi anche tu, e che d'altra parte gli eletti sono inutili. E io ti ho dato ragione, non è vero? Sì. E abbiamo così esposto la causa per cui gli spiriti eletti riescono inutili. Certo. Vuoi ora, in un secondo momento, che mettiamo in luce causa necessaria di malvagità per tanti di essi? Vuoi che cerchiamo di dimostrare, seppur ci riesce, che nemmeno questa causa risale alla filosofia? Ma certo, su via allora, si tratta di fare attenzione di rifarci col discorso a quel punto dal quale si cominciò, quando si enumerarono le doti necessarie a colui che per natura è destinato a diventare un eletto. Veniva prima, come sua guida, se ti ricordi, verità. Egli dovrebbe assolutamente seguirne le orme, in ogni modo e in ogni luogo. In caso contrario, per nessuna maniera potrà avere una relazione, spirito vano e superficiale, con filosofia. Sì, era così la parola. E questo solo punto non è già completamente opposto alla comune opinione che si formula oggi sul filosofo? Certamente, rispondeva. E non sarà allora buona difesa la nostra, quando affermeremo invece che chi essenzialmente è amante di conoscenza per naturale inclinazione aspira all'essere? Costui non vuol restarsi nelle singole cose che, in numeri, sono oggetto d'opinione. Costui va e non sottunde il suo sforzo, non si spegne il suo amore. Egli vuole attingere l'esseità, puro oggetto di singole cose, con quella facoltà dell'anima cui si addice attingere tale sublime altezza. Facoltà affine e propinqua. L'uomo amante di conoscenza si avvicina allora, valendosi di questa facoltà, e si commischia quasi all'essere nella plenitudine sua intera. Genera allora atto di mente e verità, conosce, veramente vive, trova un alimento. Così, non prima per lui, grave d'un pondo ascoso, trova pace continua, acuta sofferenza. Sicuro, rispondeva, sarebbe ottima difesa la nostra. Senti allora, un uomo così avrà in sé simpatia alcuna per la menzogna? Tutto al contrario, ne avrà odio. Odio, rispondeva. E quando verità è guida e duce, potremo affermare che mai coro di vizi le verrà dietro. Come sarebbe possibile? Bensì purità e giustizia di intemerata vita, e con esse anche temperanza seguace. Giusto, rispondeva. E dovremmo forse ora costringere a schierarsi un'altra volta il restante coro della filosofica natura. Hai certo il ricordo che si riteneva per lei necessario complemento, fortezza, magnanimità, prontezza d'ingegno, memoria. Tu anzi mi facevi obiezione. Ognuno, dicevi, sarà costretto a dare un assenso alla mia tesi. Ma chi invece, lasciando da parte le parole, volgesse lo sguardo attento sulle persone di cui si tratta, finirebbe certo per concludere che una parte è inutile e che molti invece sono malvagi. Ci siamo rivolti allora a considerare la causa di questa calunniosa diceria e siamo arrivati al punto di scorgere il motivo per cui molti di costoro sono malvagi. Per questa ragione, appunto, abbiamo ripreso un'altra volta la natura del vero filosofo e ne abbiamo determinato le necessarie caratteristiche. È così. Allora, ripresi, si tratta di scorgere gli aspetti involutivi di questa natura filosofica, sorte alla quale ben pochi si sottraggono, quelli che si chiamano appunto non più malvagi, bensì inutili. In un secondo momento individueremo gli uomini che ne imitano malamente le caratteristiche, che ne usurpano l'attività, anime tutte che attingono una missione superiore alle forze e di cui quelle anime non sono degne. Onde da questa parte gli accenti così stonati, la cattiva fama per i filosofi, e in ogni luogo e presso ogni persona. Ma a quali involuzioni accenni? Cercherò, se ne sarò capace, di dartene spiegazione. Su questo punto, intanto, credo io, tutti mi daranno il consenso. Rare volte in rari uomini si trova una natura così eccelsa e che presenti in sé, seppur deve uscirne un completo filosofo, le caratteristiche da noi attribuite ora. Non lo credi? Indubbiamente. E osserva quanto sono numerose e grandi le cause di perdizioni per questi rari uomini. Ma quali cause? Oh, una cosa veramente strana. Queste singole virtù che abbiamo tanto ammirato finiscono ciascuna per suo conto col perdere l'anima che le possiede e la strappano da filosofia. Queste virtù, fortezza, temperanza e le altre tutte da noi elencate. Strana cosa, osservò, ma ancora di più bellezza, ricchezza, vigoria fisica, consorterie sicure nello stato e simili, perdono e strappano quest'anima. Tutti quelli, insomma, che si dicono comunemente beni. Hai l'idea di ciò che intendo? Ho l'idea, rispondeva, ma anche sentirei volentieri con maggiore esattezza ciò che vieni accennando. Cerca di cogliere dunque in giusta luce il problema nella sua totalità. Lo vedrai allora del tutto chiaro e non ti sembreranno più strane le affermazioni precedenti. Cosa vuoi dire? Sappiamo bene, ripresi, che ogni seme e ogni natura, quando viene crescendo, piante animali, se non trova l'alimento che a ciascuno s'addice, o se non trova stagione o luogo opportuno, quanto è più grande il suo vigore, di tanto più sente mancanza di questi coefficienti che gli sarebbero necessari. In realtà, il male è avversario forte al buono, assai più che al non buono. Come no? Ed è anche logico che la migliore natura in ambiente estraneo e avverso riesca peggiore che non la cattiva. È logico. Allora dissi, o Adeimanto, anche le anime dotate di qualità eccelse, per la stessa ragione, concluderemo, crescono cattive se trovano cattiva educazione. E credi che i grandi misfatti e la totale malvagità provengano da nature mediocri? O non piuttosto da vigorose nature, rovinate per educazione inadeguata? Una debole natura non sarà mai causa di grandi beni, come di grandi mali. No, disse lui, è proprio così. La natura dunque del filosofo da noi delineata, se trova, penso io, convenientemente disciplina di studi, maturandosi, non potrà non pervenire a virtù perfetta. Al contrario, seminata in terra non conveniente, se germina e se cresce, dovrà approdare al risultato opposto. Solo un Dio potrà salvarla col suo aiuto. E ritieni tu pure, come l'opinione comune, che vi siano tanti giovani cui i sofisti arrecano incalcolabile rovina, tanti sofisti apportatori di danno nella vita individuale dei giovani? O non credi piuttosto che i massimi sofisti siano proprio quelli che ripetono queste accuse? Sono essi appunto che danno completa la forma educativa e che rendono quali li vogliono, e giovani e vecchi, e uomini e donne. Ma in quale occasione? Disse lui. Nell'occasione, continuai, che folla in grande massa si raduni per assidersi nelle assemblee, oppure nei tribunali, oppure nei teatri, nei campi dei soldati, o in qualsiasi altro luogo d'adunata. Ivi con grida e confusione saltano talora, talora invece biasimano parole e fatti, smoderatamente nell'uno e nell'altro caso, grida eccessive e rumore d'ogni genere, cui s'aggiunge l'eco sonante, ripercossa dalle pietre e da tutto il posto d'adunata, e in mille confusione e rumore di quella lode o di quel biasimo. In quei momenti, come dovrà battere il cuore del giovane? Ci potrà essere forza d'educazione che possa reggere, un'educazione che non venga sommersa da simile biasimo, da simile lode, che non finisca per lasciarsi trasportare secondo corrente dove la corrente trasporta? Così il giovane finirà per dire come loro che sono belle e brutte le stesse cose, finirà per seguire gli stessi istituti di quelli e risulterà simile a quella gente. Eh sì, disse lui, è necessaria conseguenza, caro Socrate. Eppure, seguitai, non abbiamo accennato ancora alla necessità più grande. Quale? Domandava. Quella che viene imposta, e non a parole, con la persuasione, ma coi fatti, da questa razza di educatori e di sofisti. Non sai che chi non si lascia persuadere da loro viene punito con infamia, con Multe, condanne a morte. Purtroppo, rispondeva. E quale altro sapiente, quali argomenti detti nell'intimo cuore potranno trionfare se si volgono per via contraria? Non ce ne sono, credo io. Certo, dissi, ma stoltezza è anche esperire un tentativo. Oh, non è possibile, come non è stato mai possibile, nemmeno lo sarà in futuro, cercare di rendere diverso, incitando la virtù, un carattere ormai educato secondo i principi di costoro. Parlo sempre, amico caro, d'umana condizione normale. Le nature privilegiate e divine, secondo il proverbio, non vanno considerate. In ogni caso, se v'è un germe che si mantenga illeso, che arrivi a crescere come si dovrebbe, nell'attuale condizione degli stati, oh, potrei dire senza errore che la sua salvezza è dovuta a qualche divina provvidenza. Eh sì. Nemmeno a me, rispondeva, la cosa appare diversa. Ma allora, continuai, anche la seguente considerazione ti deve sembrar giusta. Quale? Devi credere che ciascuno di quei singoli uomini, maestri pagati, quelli che la gente chiama sofisti e che ritiene rivali alla sua opera educativa, ebbene, fanno argomento dei loro insegnamenti, quelle opinioni appunto che la folla professa. Quelle opinioni che la folla viene formulando quando si raccoglie in assemblee. La folla poi il tutto lo chiama sapienza. Supponi ora che ci fosse un tale, capace di conoscere i furori e le cupidigie di un certo animale ben grande e ben forte, di cui è allevatore. Per esempio, per qual modo conviene avvicinarglisi e con quali precauzioni conviene mettergli sopra la mano. Così pure in quali momenti l'animale è d'umore difficile, in quali d'umore più mite. E per quali accorgimenti si può destare in lui l'uno o l'altro sentimento? Anche, questo tale sa quali voci singolarmente e per quali impulsi l'animale emetta, sa ancora per quali voci da altri emesse l'animale si calmi o s'agiti furente. Egli ha bene notato tutti questi particolari per lunga dimora insieme all'animale e per larga pratica in lungo spazio di tempo. Questo tale chiama col nome di sapienza la sua abilità. È come se ne avesse formato una teoria vera e propria, si volge a farne materia di insegnamento. Effettivamente quel tale non sa nulla, non sa tra i vari umori e tra le molte cupidigie del suo bestione, quale sia bella o brutta, buona o cattiva, giusta o ingiusta. Quel tale chiama bensì tutto ciò col nome che gli suggeriscono via via gli umori e le opinioni del suo grande bestione. Così, ciò per cui il bestione s'allieta, egli lo chiama una buona cosa. Ciò per cui si addolora, cattiva cosa, e non sa dare altra ragione alcuna su questi nomi. Egli chiama giusto e bello ciò che è necessario e fatale, e non ha intanto mai visto quanto la natura della necessità e quella della bontà differiscano l'una dall'altra, e non sarebbe capace di farne agli altri dimostrazione. Tale sarebbe questo nostro allevatore, e non credi che da lui verrebbe fuori un ben strano maestro? Mi par di sì. Rispondeva. E senti un po', l'uomo convinto che sapienza è l'aver appreso a conoscere umori e gusti d'ogni sorta di gente insieme adunata, ti pare possa differire da quel certo allevatore? E intendo gusti e umori sulla pittura, sulla musica, sulla politica. In verità, costui qualsiasi produzione vorrà portarla dinanzi al giudizio del volgo, poesia, arte figurativa, politica. E facendo oltre misura arbitro il volgo delle proprie decisioni, necessità inevitabile, lo costringerà per forza a produrre soltanto ciò che potrà incontrare l'applauso del volgo. E per certo, invece, non udisti mai dimostrazione che i gusti del volgo possano rivolgersi al bello e al buono, senza che quella dimostrazione non destasse ilarità completa. Credo di sì, disse lui. E certamente non udrò mai simile dimostrazione. Osserva dunque queste considerazioni e richiama anche quello che si diceva. Ti par possibile che la gente voglia ammettere l'essere d'una bellezza nella pura oggettività e non l'esistenza di innumeri cose belle? Ritenere che le singole cose hanno una loro oggettività e in questa sono, e invece non sono le innumeri cose singole? No, affatto, rispondeva. Allora ne viene una conseguenza, gli dissi. Impossibile che il volgo sia filosofo. Impossibile. ed è ineluttabile conseguenza che chi attende alla filosofia sia trattato dagli uomini del volgo con vituperio. È così pure da questi singoli uomini, quali, prosternandosi al volgo, agognano di riuscir graditi al volgo. Chiaro. Come conseguenza, allora, quale salvezza puoi scorgere per chi è naturalmente filosofo? Per una natura che, perseverando nel suo sforzo, possa pervenire a consummazione delle proprie facoltà. Osserva quello che consegue da quanto precedentemente si disse. Abbiamo concluso che caratteristiche di questa natura siano la prontezza dell'apprendere, la memoria, il valore, la magnanimità. Sì, e quest'uomo ancora a scuola sarà sempre il primo fra tutti, tanto più poi se il vigore di fisica vita si mantiene pari a quello dell'anima. Non c'è dubbio alcuno, rispondeva, e i familiari concittadini vorranno servirsi di lui per i loro personali interessi il giorno in cui sarà fatto adulto. Come no? Così gli staranno sopra, insistendo con preghiere e colmandolo di riguardi, e a tempo opportuno cercando di accaparrarsi, anche con blandizie, quella sua tanto attesa potenza. Eh già, rispondeva, le cose purtroppo vanno così. E in tale condizione come potrà comportarsi quest'uomo? Supponi che sia nato in una città potente, che gli abbia posizione eccezionale per ricchezza e per nascita, che ancora sia bello d'aspetto e vigoroso, non dovrà forse sentirsi pieno di speranze indefinite e senza possibilità di realizzazione? Sarà convinto d'essere in grado di reggere le sorti di greci e di barbari, così innalzerà se stesso, gonfio per false pose e per vuota irragionevole superbia. Sì, rispondeva. Allora supponi che, mentre si sente così animato, ci fosse chi dolcemente gli si avvicina e non gli nasconde la verità. Supponi, questo tale gli dice che in lui non c'è ombra di maturità intellettuale. Eppure, quanto bisogno quel giovane ne avrebbe? Una dote che non si acquista se non da chi è disposto a mettersi sotto disciplina severa. Credi che sia facile per lui prestare ascolto a queste considerazioni in mezzo a tante maligne cose che lo circondano? Ce ne vuole, disse. Supponi ancora, seguitai, sostenuto da naturale disposizione e per congenialità con queste ragioni, egli sente qualche cosa per entro a queste ragioni, si piega, viene attratto a filosofia. In tal caso, che cosa faranno quei personaggi, convinti di aver perduto non solo i vantaggi che da lui provenivano, ma anche la sua amicizia? Certo, esperiranno ogni mezzo, ricorreranno a discorsi e espedienti d'ogni genere, pur di render vana l'azione persuasiva di quel benigno consigliere, sul quale eserciteranno anche pressioni, con insidia nella vita privata e in pubblico, intentandogli processi. È una conseguenza necessaria. Ed è possibile allora che in quest'uomo continui inalterato quell'entusiasmo per la filosofia? In nessun modo. Vedi dunque, ripresi, non avevo torto quando affermavo che le stesse singole facoltà di una natura filosofica, quando non trovano sostentamento conveniente, sono in certo qual modo proprio causa che allontana il giovane dalla via della vocazione. E nello stesso senso agiscono quelli che si chiamano comunemente beni, ricchezza e tutto il suo completo corteggio. Non avevi torto, rispondeva, anzi, perfetta ragione. Eccoti, seguitai, mio ottimo, questa è rovina e perdizione. Ne vedi le qualità, ne vedi l'imponenza, ed è rovina d'una eccellente natura rispetto alla più nobile attività, natura per di più che si presenta assai rara, come stiamo dicendo. E da questi uomini provengono anche coloro che producono i danni più grandi agli stati e ai cittadini singoli, come pure quelli che producono benefici particolari, quando questi uomini inclinino verso tale parte. Una meschina natura non fa nulla di grande mai a nessuno, non a città, non a singolo individuo. Verissimo, diceva lui, Ma questi uomini che falliscono, mentre quelle doti sarebbero pari all'alta missione, lasciano intanto sola la filosofia e derelitta, e per conto proprio conducono una vita non conveniente alla loro natura, una vita non vera. Filosofia rimane perciò orfana, e chi le sta vicino non ha più natura affine a quella di lei. Altri si insinuano e vengono dentro, uomini indegni, la disonorano e le procacciano vituperio, e la gente dice allora, sono due parole, che quanti si dedicano a filosofia sono uomini da nulla, i più degni d'essere trattati con punizioni e castighi d'ogni genere. Sì, è vero, rispondeva, si dice appunto questo. E non hanno tutti i torti, continuai. Vedi, gli altri piccoli uomini notano che questo posto si va facendo vuoto, un posto di bei nomi e d'alte figure onusto. Allora, come quelli che fuggono dalle prigioni per rifugiarsi nei templi, così questi piccoli uomini, tutti lieti, balzano da giornaliere occupazioni e si riversano su filosofia. Piccoli uomini che hanno una certa abilità nelle piccole arti, perché, pur così vilipesa, sublime e magnifica la dignità in questo amoroso studio di sapienza. E appunto cupidigia di tale dignità muove tanti piccoli uomini naturalmente imperfetti, impressi nel corpo dei segni per diuturna opera d'artigiani ed operai, nell'animo poi parimenti per viltà di ciò che praticarono, rotti e fatti molli. È una condizione inevitabile, è vero? Purtroppo, rispondeva. Credi dunque, ripresi, che vi sia differenza nell'aspetto tra questi uomini e un fabbro arricchito, senza un cappello in testa, basso di statura, uscito fuori appena ieri dai ceppi della schiavitù? Il nostro piccolo uomo si è pulito e si è lavato nel bagno, si è messo addosso un mantello alla moda e si presenta vestito da sposo per impalmare la figlia del padrone ridotto in miseria e da tutti abbandonato. No, non differiscono in nulla, rispondeva. E quali figli è da aspettarsi che vengano fuori da questo connubio? Certo, meschine creature, di sangue non schietto. È inevitabile conseguenza. Senti allora, quegli uomini, indegni di un'alta educazione, quando bazzicano con cose superiori a loro, quali pensieri, quali sentenze potranno generare? Saranno certi veri e propri sofismi, nulla di nobile, nulla che attinga vera spiritualità e genuina intelligenza. Senza dubbio, concluse egli. Dunque, aggiungevo io, o Adeimanto, ben piccolo rimane il gruppo di chi s'accompagna degnamente a filosofia. Sarà, come ti puoi attendere, qualche nobile natura, spiritualmente educata, che vive in terra d'esilio e che non trova perciò chi la possa corrompere. Seguendo inclinazione, rimane fedele a filosofia. Così pure, in una piccola città, qualche grande anima disdegnosa di pubblici uffici nella piccola sua patria. Da ultimo, quelle poche nature che per disposizione passano a filosofia, giustamente sentendo vanità d'ogni altra arte. Si potrebbe anche annoverare, capace di trattenere, quel freno che trattiene l'amico nostro Teage. Teage, vedi, avrebbe tutte le ragioni per abbandonare la filosofia. Lo trattiene un fisico delicato che gli impedisce d'accostarsi alla vita politica. In quanto a quello che avviene a me, il segno cioè di potenze superiori, non vale la pena di farne cenno. È cosa che non si è certo manifestata in precedenza a nessuno. Coloro dunque che vennero a trovarsi in così esigua compagnia e poterono fare esperienza di quel possesso, quanto sia soave e quanto felice, coloro che, d'altra parte, arrivarono a gettare uno sguardo sulla demenza del mondo e videro che nessuno, direi quasi, conduce le cose delle città secondo sana ragione, nessuna cosa assolutamente, videro che non si può trovare un alleato la cui compagnia assicuri probabilità di salvezza quando si scende a combattere per giustizia. Avviene come quando un uomo cade in balia di fiere, e quest'uomo, non intende farsi complice di tale furore. D'altra parte, non ha possibilità, uno solo com'è, di scendere in campo e tener duro contro tutti i forsennati. Prima di fare un po' di bene alla sua patria e ai suoi compagni, molto prima, quest'uomo finirebbe male e riuscirebbe inutile a sé e agli altri. Ecco, quest'uomo non tarderà a comprendere come stanno le cose e si astiene dalla vita politica, rivolto interamente a sé e alla sua interiorità. Così, in una bufera, mentre l'impeto del vento apporta l'uragano e travolge la polvere, un viandante si fa sotto piccolo muro per riparo e quell'uomo intanto osserva gli altri grondanti d'ogni illegalità e si ritiene lieto e fortunato se, in qualche modo, arriverà a trascorrere la vita qui in terra puro e illeso fra tanta malvagità e tanta impietà. E in liberazione da questa vita, confortato per sublime speranza, costui accoglierà poi tranquillo e in pace. «Oh», disse lui, «partirebbe dalla vita avendo certo realizzato qualche cosa, ma», continuai, «non la cosa che più importa, in quanto non ha trovato forma di governo a sé conveniente. In verità, se questa fosse stata conveniente, la meta raggiunta sarebbe più alta e insieme con più completa evoluzione interiore, egli porterebbe anche salvezza alla patria». Mi pare d'aver esposto sufficientemente, a meno che tu non abbia contraria opinione, per quale motivo filosofia sia venuta acquistando questa infamante voce, e parmi d'aver mostrato pure che per somma ingiustizia tutto ciò avviene. Io, disse lui, non avrei più nulla da dire, ma fra le costituzioni ora vigenti, quale affermi convenienti a questa natura filosofica? Nessuna, risposi. Anzi, vedi, formulo precisa accusa, perché nessuna delle attuali forme di governo può adeguarsi a una natura di filosofo. Per questo motivo, appunto, quella natura riesce tanto contraria e da se stessa diversa. Avviene come quando un seme di terra lontano viene seminato in terra non sua. Quel seme si snatura e, quasi soggiogato, finisce per passare alle caratteristiche del luogo. Alla stessa guisa, anche questa natura non può reggere nelle proprie caratteristiche, ma decade verso estranei costumi. Invece se, come ottima è di sua natura, incontrerà un'ottima costituzione, farà vedere allora che veramente è divina. Umane, invece, l'altre nature e l'altre istituzioni. Insomma, è chiaro che domanderai, dopo tutto, quale sia questa forma di costituzione. Non hai colto nel segno, rispondeva. In verità, non stavo per domandarti questo, bensì se la costituzione che abbiamo delineato, fondando la città, sia appunto questa, o se si tratti di un'altra. Per la massima parte la stessa, e appunto si diceva che nella città ci doveva essere una qualche autorità che avesse concezione uguale a quella del legislatore sul modo di amministrare lo Stato. Già, si disse così. Ma, continuai, non abbiamo messo in chiara luce la cosa. Ci spaventarono un poco le vostre obiezioni, perché la dimostrazione sarebbe stata lunga e difficile. Del resto, anche la parte rimanente non è facile a esporsi. Quale? In quale modo uno Stato, dedicandosi a filosofia, non incorrerà a sicura rovina? È un fatto. Perigliose sono le grandi imprese. Le cose belle, per dirla proprio col proverbio, sono difficili. In ogni caso, rispondeva, metti in chiaro questo punto e fornisci così completo sviluppo alla dimostrazione. Replicai, non si tratta di cattiva volontà, si tratta semmai di incapacità. Ciò potrà porre impedimento. In ogni caso, qui, di presenza, potrai conoscere il mio buon volere. E sta attento con quanto ardimento mi accingo a dimostrare che uno Stato deve comportarsi su questo punto in modo del tutto opposto a quello seguito oggi. Come? Oggi, dissi, quelli che anche si occupano di filosofia lo fanno quando sono giovinetti, appena usciti dalla prima età della vita. ma dopo averne sfiorato i primi problemi, oppressi dalle preoccupazioni della famiglia e degli affari, quando la disciplina comincia a svelare il suo punto difficile, l'abbandonano. E sono quelli che hanno anche una certa cultura filosofica, e in quanto al punto difficile intendo accennare alla dialettica. Nel successivo tempo della vita, quando ricevono invito per assistere come ascoltatori a qualche lettura di carattere filosofico, la stimano una cosa eccezionale, convinti di farlo come un di più. Vecchi poi, esclusi pochissimi, si spengono del tutto, più assai che non si spenga il sole di Eraclito. Oh, nessuna luce mai più s'accende in questi uomini. E come si dovrebbe fare? Chiedeva. Tutto il contrario. Finché sono ragazzi e fanciulli, debbono intraprendere uno studio, un corso di discipline opportune a ragazzi. Prendersi invece speciale cura della salute. I giovinetti in questo periodo sono in crescita e l'organismo si va via via facendo adulto. È bene quindi cercare d'avere in lui chi presterà utile servizio alla filosofia. Avvicinandosi poi l'età in cui l'anima comincia a raggiungere una completa evoluzione, si dovranno intensificare gli studi e le esercitazioni adatte. Quando invece declina il vigore della vita e si alliberi al fine dalle cure civili e da quelle del servizio militare, oh, allora filosofia deve diventar cibo delle anime nostre, e questo faremo evitando di attendere e solo in via subordinata ad altre attività. Così, almeno, chi vuole trovare la felicità nella vita e dopo la fine ottenere laggiù una sorte conveniente alla vita trascorsa. Davvero, Socrate, rispondeva, mi pare che grande sia il calore delle tue parole. Tuttavia, sono sicuro che molti tra gli ascoltatori sapranno ancora più disposti a contraddirti, e a cominciare da Trasimaco non si lasceranno per nessun modo persuadere. Non devi, dissi io, metter male fra me e Trasimaco. Siamo diventati ora buoni amici. Del resto, nemmeno prima eravamo nemici. Anzi, non lasceremo intentato nulla per veder di persuadere sia lui sia gli altri. In ogni caso, questo che dico sarà utile per un'altra vita, quando, dopo novella nascita, tutti questi amici potranno trovarsi presenti a discussioni non dissimili da queste. Oh, rispose, hai fatto una dilazione a tempo proprio breve. Un nulla, se pensi all'eterno. In ogni caso, non c'è motivo di meraviglia se molti non prestano fede a questi argomenti. È un fatto. Non hanno mai potuto scorgere attuata veramente questa parola. Al contrario, udirono forse qualche discorso, congegnato con parole, artificialmente l'una con l'altra congiunta, non parole, come le nostre di ora, per spontanea armonia concordanti. Così pure, non hanno mai visto un uomo che eserciti il potere in una città simile a questa. Un uomo che si faccia uguale o simile per quanto è possibile alla virtù, compiutamente, in opera e in parola. Oh, non ne hanno visto né uno né molti, non lo credi? In nessun modo lo videro. E nemmeno, mio caro, si sono trovati in condizione d'udire libere e belle discussioni, ove si ricercasse intensamente la verità per ogni guisa, con l'unica meta di conoscerla. In queste discussioni non c'è traccia di queste ingegnose e litigiose parole che hanno per unico fine la fama e il puntiglio, parole di tribunali e di private riunioni. Si capisce, nemmeno queste. E allora io continuai. Prevedendo questa situazione, poco fa abbiamo espresso nostra sentenza. Eravamo sì dubbiosi, ma la verità ci portava necessariamente a parlare e a dire che città, costituzione politica, individuo singolo, non potranno consummare la loro evoluzione prima del giorno in cui qualche necessità conduca, volenti o nolenti, per fortunato caso, questi filosofi a prendersi cura dello Stato. Questi filosofi che sono radi e non malvagi, quelli ora chiamati inutili. Eguale necessità dovrà poi condurre gli Stati a diventare docili e obbedienti a costoro, oppure per qualche divina provvidenza dovrà sorgere in chi oggi detiene il potere, in chi è re o anche nei figli di qualsiasi re, amore vero, di filosofia vera. E affermo, non conforme a ragione negare possibilità, che l'uno o l'altro caso possa verificarsi. Se così fosse, giusta sarebbe la derisione, vana poi la nostra parola, simile a utopia o chimera. Non è così? Se dunque, per comprensori di filosofia, sorse un giorno, nell'innumere tempo trascorso, necessità di prendersi cura dello Stato, se anche oggi questo avviene in qualche estranea terra, lontana terra dalla nostra visione interamente remota, se anche nel tempo futuro ciò avverrà, oh, allora siamo pronti a sostenere battaglia di parola su questo punto. C'è stata questa Costituzione e c'è, pur ci sarà, il giorno in cui questa musa possa diventare signora d'uno Stato. Insomma, non è impossibile che questa Costituzione divenga realtà. Nostra parola non persegue visione impossibile. Difficile, sì, e questo è ammesso anche da parte nostra. Sì, anche a me, rispondeva, pare sia così. E, dissi, non affermerai tu che la gente comune non è di questa opinione? Forse, mio caro, seguitai. Non rivolgere accusa così a cuor leggero. La gente finirà per avere ben diversa opinione quando, senza puntiglio e senza pervicacia, sarà in grado di fornire considerazioni pacate, di dissolvere le calunnie che opprimono quest'amore di sapienza e dimostrare veramente chi siano quelli che tu chiami filosofi. Definirai così, come poco fa, la loro opera e la loro natura. E i tuoi ascoltatori non saranno più vittime di un equivoco, ritenendo che tu voglia accennare a quelli che essi hanno nella mente. E se arriveranno a vedere in questa luce il problema, dirai che possano formulare diverse opinioni e dare un'altra risposta? Credi che ci si possa adirare con chi non ci dà noia, portare invidia verso chi è immune da ogni difetto e, mite, non porta invidia a nessuno? Prevengo, vedi, la tua risposta, e affermo che una natura così avversa si può trovare in ben pochi, non nella maggioranza della gente. Assentiva, mi associo anch'io senz'altro al tuo giudizio. Ma allora sei d'accordo anche in un altro punto. I responsabili di questa avversione sono precisamente quelli che con piena sconvenienza hanno fatto irruzione nella filosofia. Gente sfrenata, reduce da qualche bagordo. Costoro sanno soltanto dire reciproche offese, sempre travagliati in eterne risse. Gente che non sa discorrere se non degli uomini, il che non ha nulla da vedere con la filosofia e non le sa dice. Proprio così, rispondeva. Perché, vedi, o Adeimanto, chi ha la forza cogitativa veramente rivolta agli enti nella loro oggettività, non ha nemmeno tempo di guardare in basso a questo trambusto degli uomini, non sa combattere costui contro i suoi simili, con l'anima gonfia di invidia e d'ostili sensi, bensì lo sguardo suo è rivolto verso un mondo i cui elementi eternamente sono immoti nella loro identità. Egli ne contempla l'esistenza che offesa non conosce, che offesa in cambio non riceve. Tutto è cosmo lassù. E imperio di ragione, questi i suoi modelli, ai quali il più possibile egli s'adegua. Perché credi ci sia modo di non imitare quella persona a cui, in un sorriso, si rivolge la conversazione nostra? Impossibile, rispondeva. Ma allora il filosofo si fa compagno con ciò che è divino, ciò che è cosmo, e per quanto lo consenta l'umana natura, anch'egli sarà cosa divina, un cosmo anch'egli sarà. Oh, la gente con quanta inesattezza parla di questo fatto. Non c'è dubbio. E se necessità lo porta a cercare di imprimere il suggello di lassù nella vita umana di singoli individui o di intere collettività, e e non soltanto configurar se stesso a immagine di quella visione, puoi credere che il filosofo sarà artefice difettoso di temperanza, di giustizia, d'ogni civile virtù? No, niente affatto, disse lui. Ma se gli uomini si accorgessero che è vero il nostro giudizio, continueranno forse ad essere avversi ai filosofi? Ci guarderanno forse increduli quando li assicuriamo che uno Stato non potrà mai per altro modo trovare condizione felice se non ne tratteggeranno il profilo quei pittori che possano adoperare i lineamenti del divino esemplare? No, non continueranno nella loro avversione, disse lui. Bisognerebbe però che avessero percezione della verità. Ma di qual genere intendi che sia questo profilo? Prenderanno, gli dissi, come fosse una tavola, la città e le abitudini di chi vi abita. Cominceranno, operazione non facile, col renderla perfettamente pulita. Del resto, sai bene, in ciò consiste la loro prerogativa, così dissimile dagli altri in questo appunto, che non vorranno por mano a riformare un individuo, uno Stato, non vorranno scrivere leggi prima che la tavola sia consegnata pulita o tale essi stessi la rendano. Sì, ed è giustissimo, rispondeva. E allora non credi che, in un successivo momento, cominceranno a disegnare il profilo della nuova Costituzione? Perché no? Ma allora credo, durante il lavoro, non mancheranno di volgere frequente lo sguardo alle due parti, verso l'idea di giusto, di bellezza, di temperanza e così via, e inoltre verso gli effigiati aspetti del mondo umano. Così potranno tratteggiare l'umana sembianza, commischiando e stemperando quasi i vari uffici, in conformità sempre di ciò che Omero suol chiamare, quando esiste nel mondo umano, specie divina ed effigie di Dio. Giusto, rispose. E qualche tratto, credo, dovranno cancellarlo via, qualche altro dipingerlo in più, fino al punto in cui potranno rendere l'umano costume, per quanto possa reggere, a Dio accetto e a lui amico. Oh, rispose, davvero stupenda risulterà questa pittura. E non riusciremo forse a convincere, per qualche modo, quelli che, dicevi tu, ci si sarebbero precipitati contro, convincerli che così appunto si dipinge una Costituzione, quella che poco fa innalzavamo di fronte a loro, con le nostre lodi, precisamente quel pittore in rapporto al quale così grande era il loro sdegno, quando ci si dimostrò decisi ad affidargli il governo degli Stati. Un po' di più, ora, forse sapranno restalcarmi, udendo la mia affermazione. Non credi? Oh, senza dubbio, disse lui, se vorranno capir bene le cose. E su quale punto poi potranno manifestar qualche dubbio? Forse su questo punto, che i filosofi non sono innamorati dell'essere, non sono innamorati di verità. Sarebbe, rispose, una bella stranezza, ma forse che la natura di costoro, come l'abbiamo delineata, non è affine a quanto vi è di più elevato, nemmeno questo. E senti allora, dubiteranno forse che una simile natura, se trova il modo di esplicarsi come a lei conviene, non sia perfettamente buona e amante di conoscenza, una natura di filosofo? Potrei affermare che lo siano piuttosto coloro che abbiamo escluso? No, certo. E potranno adirarsi, perché sosteniamo che non vi sarà tregua di sciagure per gli stati e per i cittadini, se prima il governo non venga nelle mani dei filosofi, se prima non possa aver sua completa forma la Costituzione che con parola tratteggiamo? Forse, rispose, un po' meno. E vorresti allora che dicessi una cosa? Non sono cioè divenuti meno avversi, del tutto si sono fatti miti, totalmente ormai persuasi, così ci daranno ragione e non avranno il coraggio di dire ostinatamente il contrario. Senza dubbio, rispondeva. E va bene, dissi, su questo punto ammettiamoli, insomma già convinti, e su quest'altro dubiterà forse qualcuno che non possano nascere discendenti di re e di principi dotati di natura filosofica, No, nessuno, rispondeva. E si può veramente sostenere in ineluttabile condizione che, nascendo dotati di questa natura, debbano tutti corrompersi? Che sia difficile mantenere illese le alte qualità, questo anche noi lo possiamo concedere. Ma chi potrebbe porre in dubbio che, nell'intera vicenda dei tempi, nemmeno uno fra tutti si possa serbare illeso? E come? Ma, dissi, se uno solo dotato di queste qualità potrà avere in mano una città docile al suo volere, quest'uno può dare attuazione a riforme che ora sembrano impossibili. Già, se dotato, rispondeva. Perché vedi, continuai, se chi ha autorità arriva a stabilire le leggi e le istituzioni da noi esposte, non è più possibile che i cittadini si rifiutino di seguirle. Eh no, non è possibile. Ma ti par proprio strana cosa impossibile che altri abbiano questa nostra teoria? Non mi pare, disse lui. D'altra parte, precedentemente abbiamo veduto ben chiaro, come credo, che, ammessa nella possibilità, è teoria ottima e grande, molto chiaramente. E in questo momento, appunto, ci troviamo a concludere che la nostra legislazione sarebbe appunto ottima se si potesse addurre all'atto. E questa attuazione, pur difficile, non è impossibile. Sì, siamo a questa conclusione proprio, rispondeva. Allora, siccome questa parte è finita, si tratta di esporre un nuovo punto che ci rimane. Per qual modo, per quali cognizioni, per quali esercizi questi uomini atti a salvare la città verranno a sorgere in quella? Qual è la giusta età in cui ciascuno potrà attingere le singole discipline? Sì, appunto, si tratta di questo, rispondeva. Oh, a nulla ha servito quel mio accorgimento di prima. Avevo cercato in un primo momento di lasciare andare la spinosa questione sul possesso delle spose, sulla generazione dei figli e l'investitura dei capi. Sapevo quante contraddizioni avrei destato. Come difficile sarebbe apparsa la completa verità. E ora, nulla meno, ecco, sono giunto a dover fare proprio completa l'esposizione. E il problema delle spose e quello dei figli, quello almeno è stato esaurito. Questo dei capi, invece, richiede una trattazione particolare dal principio. Dicevamo, seppur ricordi, che i sommi custodi debbono apparire amanti della patria, provati nel dolore e nella gioia. Persone veramente tetragone, esse che per affanni, per timori, per qualsiasi vicenda, mai rinunceranno alla loro fede. Dicevamo che chi non sa reggere deve essere rimosso. Chi invece in ogni tempo esce senza macchia, come oro provato dal fuoco, sarà posto quale custode, e a lui si deve attribuire onore e premio, sia da vivo che da morto. Erano questi, pressappoco, gli argomenti esposti. La parola evitava e nascondeva, timore grande di muovere ciò che ci sta dinanzi in questo momento. Verissimo, sì, rispondeva, e ricordo bene. Sì, e dubitavo esprimere quanto ora nella sua audacia è stato espresso. Insomma, su questo punto si tratta di aver coraggio e dire che si debbono porre quali custodi i filosofi più grandi. Si è detto sì, rispondeva. Ma devi fare attenzione. Per legge di natura ben pochi ne troveremo. Quell'insieme di qualità che dobbiamo cercare in questi uomini, assai di rado acconsente a conglobarsi in un'unica e medesima persona. Le qualità appaiono per lo più disperse. Come intendi? Domandava. Sai bene. Prontezza nell'apprendere, memoria vigile, sagacia, acutezza e altre qualità a queste conseguenti non amano presentarsi congiunte a generosità e a magnanimità, in guisa che per questo connubio l'uomo acconsenta di vivere con fermezza la comune esistenza, tranquillo e ordinato. Simili nature d'ingegno acuto e vivace si lasciano anzi portar via come capita. Destituite d'ogni fermezza di propositi. Hai ragione, rispondeva. Bene, D'altra parte, una natura ferma, non facilmente mutevole, quelle nature di cui si sente piena fiducia nelle evenienze belliche, immote nature di fronte alla paura, conservano il loro atteggiamento anche nello studio. Si muovono con difficoltà, apprendono male, paiono quasi intorpidite, nature piene di sonno, sbadigliano quando la mente è rivolta agli studi. È così, rispondeva. E noi invece affermiamo necessario che i custodi partecipino completamente dell'una e dell'altra qualità. A chi ne fosse sfornito non si deve invece affidare l'educazione consummante, come nemmeno gli uffici supremi del potere. Giustissimo, disse lui. E non credi forse che questa coincidenza potrà verificarsi assai di raro? Come no? Allora, si tratta di esperire opportuna prova per mezzo di faticosi esercizi, per mezzo di pericoli, di piaceri, ciò che prima si diceva. Ma in più c'è un fatto che prima abbiamo trascurato e che ora vogliamo dire. È necessario fare esercitazione con profondi studi, spiare in tal modo se l'anima sia capace di reggere al grado d'altissime discipline, oppur se vile ne ha terrore, come in altro genere di sforzo, gli atleti per terrore si ritraggono vili. Certo ti conviene, concludeva, far così la tua indagine. Poi continuava. Ma quali intendi che siano queste elevatissime discipline? Ricorderai certo, risposi, che dopo aver distinte tre potenze nell'anima, ne abbiamo dedotto quindi la definizione di giustizia, di temperanza, di fortezza e di sapienza. Se non ricordassi, non sarei degno d'ascoltare il resto. E ciò che si disse avanti? Cosa intendi? Dicevamo che c'era un altro ben più lungo cammino per contemplare nella sua totalità la questione delle virtù, un cammino che chi lo compie avrebbe veduto in piena luce il problema, ma aggiunsi che in ogni caso avrei potuto anche trattare con prove derivate da quanto ormai avevamo detto. E voi avete creduto che queste prove fossero sufficienti. Per tal modo gli argomenti d'allora, così mi pareva, non furono portati al punto finale vero e proprio. Se d'altra parte vi sono sembrati davvero esaurienti, me lo potete dire. Ma, rispondeva, a me pareva che andasse bene, e gli altri avevano la stessa impressione. Mio caro, esclamai, per simili questioni una misura che pur di piccola sua parte si trovi mancante risulta subito insufficiente. Una misura incompleta, vedi, non può servire a misurare qualche cosa. In ogni caso, a taluni, questa incompleta misura pare sufficiente e che non si debba cercare oltre più nulla. Sì, rispondeva, non sono pochi che con troppa facilità s'accontentano di questi accomodamenti. Ma questo difetto non conviene davvero, dissi, a custode di città e di leggi. Non conviene, disse lui. Allora è necessario, rispondevo io, mio caro amico, che costui intraprenda il giro più lungo. Non deve dedicare ai suoi esercizi d'educazione fisica fatica maggiore che ai suoi studi. In caso contrario, non giungerà al culmine della elevatissima disciplina. Quella, dicevamo appunto, che a lui del tutto conviene. Ma non sono queste, domandava lui, le discipline elevatissime. C'è dunque qualche cosa ancor più sublime di giustizia e delle virtù prima enumerate? Certo, qualche cosa di più sublime, ripresi. E di queste stesse virtù non si tratta più come ora di contemplare un adombrato profilo. Non se ne deve trascurare la dipintura completa. In realtà, non ti sembra ridicolo che per altre cose, in sé di poco conto, si faccia ogni sforzo per ottenere la più perfetta e la più pura esecuzione, e non si debba pretendere poi che per cosa elevatissima, elevatissima ne sia anche la perfezione? Oh, il tuo principio, rispondeva, è veramente giusto. Ma chi vuoi ora che ti lasci andare e non ti chieda invece che cosa sia mai questa elevatissima disciplina e qual è il suo contenuto? Non lo penso nemmeno, dissi. Ma E me ne puoi far domanda, ma senza dubbio non ne hai sentito una sola volta parlare, e ora o non ci pensi, o piuttosto hai in mente di procurarmi ancora difficoltà proponendomi continue obiezioni. E credo si tratti di questo appunto. In realtà molto spesso hai udito che l'idea del bene è elevatissima disciplina. Per lei, appunto, le cose giuste e le altre cose che adempiono il loro compito valendosi di quella acquistano tutte ragione, di fine e di convenienza. E ora sai che intendo appunto accennare a questo, e inoltre al fatto che l'uomo non possiede conoscenza perfetta di quest'idea. E se non la si conosce, e se, a prescindere da questa, potessimo anche penetrare ad ogni altra cosa il mistero, sai bene che questa conoscenza sarebbe inutile. Come possedere una cosa che in sé non avesse alcuna ragione di bene? O credi che ci possa servire qualche cosa, qualsiasi possesso, tuttavia non buono? O anche, cosa serve all'uomo poter concepire ogni scienza e ogni virtù prescindendo dal bene? Saper sì, ma non saper nulla di buono e di bello? In nome del cielo, non serve certo. Ma tu sai anche questo. Comunemente si ritiene che il bene sia il piacere. Chi invece è più evoluto, che il bene sia una cognizione. Come no? E sai pure che con questa teoria non possono poi dimostrare di quale cognizione si tratti. Sono infine condotti a concludere che questa cognizione è, né più né meno, la cognizione del bene. Certo, rispondeva, fa proprio ridere. Come no, dicevo io. Ci rimproverano perché noi dichiariamo di non sapere cosa sia il bene, e intanto parlano con noi come se lo sapessimo. Dicono infatti che è cognizione del bene, quasi potessimo comprendere ciò che dicono quando pronunciano la parola bene. Verissimo, rispondeva. E cosa avviene invece di quanti ritengono che il bene sia il piacere? Potresti dire che in costoro la confusione delle idee sia minore che negli altri? Non sono forse costretti questi pure ad ammettere che vi sono piaceri cattivi? Certo, accade dunque a costoro, credo, ad ammettere che vi sono cose buone e cattive nello stesso rapporto, o no? Sì, certo. Non è chiaro, insomma, che su questo punto vi sono grandi e molti motivi di controversia? Come no? Senti allora, anche questo che ti dirò è chiaro. Finché si tratta di cose giuste, di cose belle, ci sono molti che accetterebbero l'apparenza del giusto e del bello, anche se le cose veramente non fossero tali. Eppur tuttavia agirebbero in conseguenza, ne conserverebbero il possesso, contenti di far soltanto figura d'averle queste cose di fronte agli uomini. Ma se si tratta del bene, nessuno più s'accontenta dell'apparenza. Si ricercano quelle cose che sono veramente buone. L'apparenza è rifiutata da ognuno. Eh sì, questa è la meta dunque cui ogni creatura vivente persegue. In vista di ciò ogni creatura dirige ogni sua azione, divinando per congettura che questo bene qualche cosa pur sia. Dubita intanto e non può a sufficienza comprendere che cosa esso sia, e non ha modo di valersi rispetto al bene d'una persuasione ferma, quella che pur vale per l'altre cose, difetto che toglie anche a queste la possibilità d'esserci utili. Ebbene, intorno a un argomento di tale e di tanta importanza, concederemo che restino avvolti di tenebra anche quegli eletti ai quali ogni cosa affideremo? No, niente affatto. In conclusione, continuai, quando non si sa per qual modo le cose giuste e belle, anche siano buone, troveranno un difensore che non vale nulla, in quanto ignora appunto questo profondo rapporto. Anzi, voglio fare un'affermazione, pur senza dimostrarla. Nessuno potrà prima abbastanza conoscere nemmeno quel bello e quel giusto partecipanti alle cose e alle azioni. E, rispondeva, pur non dimostrata, va bene l'affermazione. E la nostra città non sarà forse compiutamente ordinata qualora un tale custode ne prenda guardia, un custode che sappia tutto questo. È inevitabile conseguenza, rispondeva. Ma, Socrate, il bene è conoscenza? Piacere? Forse qualcosa diversa? Con la tua intelligenza da lungo tempo, gli dissi, hai dimostrato di non poterti accontentare delle comuni opinioni su questi argomenti. Non è soltanto questo, Socrate, rispondeva. Non mi par nemmeno bello ripetere soltanto le opinioni altrui e non essere in grado di esporre le proprie, tanto più che da molti anni mi occupo di questi problemi. Senti allora, dicevo, ti par giusto parlare di ciò che non si sa, come se lo si sapesse? Come se lo si sapesse? No. Sempre in ogni caso, come se si trattasse di esporre una propria opinione personale. Sta attento dunque, continuai. Non ti sei accorto che le opinioni non sostenute da scienza sono una brutta cosa e quelle che vanno ancora un po' meglio sono cieche. Non credi che in nulla differiscano da ciechi che pur vanno sulla buona strada, quanti formulano, opinando, una conclusione vera, pur senza l'aiuto della mente? E nulla, rispondeva, e desideri contemplare brutture, oscurità, incertezze se ti è concesso udire da altri conclusioni aperte e luminose? In nome del cielo, disse Glaucone, ora che sei presso a consumare il tuo ragionamento, ti prego di non voler smettere. Per conto nostro saremmo contenti lo stesso, se nel modo con cui trattasti su giustizia, temperanza e le altre virtù, così anche tu trattassi sul bene. Già, anche per conto mio caro amico, dissi, sarei più che contento. Ma vedi, se non ci riuscirò, se con tutta la mia buona volontà farò una figura ridicola e impacciata. In ogni modo, miei cari, per ora ci conviene lasciare andare la ricerca su ciò che sia precisamente il bene, adeguare con parola il concetto che di lui posso proporre. È impresa che trascende di gran lunga ogni limite delle nostre forze in questo momento. Voglio invece parlar di colui che ci si manifesta figlio del bene e a lui del tutto simile. Del resto, se vi è gradita la ricerca, in caso contrario, lascio andare. Ma, rispondeva, parla pure. In avvenire pagherai invece il tuo debito per la trattazione sul padre. Oh, continuai. Desidererei assai che le forze mi consentissero di fornirvela, questa trattazione. Allora voi potreste avere quanto vi spetta, e non come ora il solo generato. Il padre stesso, bensì. Ricevete in ogni modo questi che è generato, a guisa di compenso, e che è figlio del bene. Ma fate attenzione, perché non intendo ingannarvi. Oh, non vorrei darvi inesatta ragione pur di lui che è il generato. Staremo bene attenti, rispondeva, per quanto possiamo. Soltanto, su via, parla. Ma prima, soggiungevo io, vorrei mettere bene in chiaro e voglio anzi richiamarvi alla memoria quanto si disse prima e di cui abbiamo trattato più volte. Che cosa? Disse lui. In numeri cominciai, le cose belle, in numeri, le cose buone. E di ciascuna affermiamo la sussistenza e la determiniamo con nostra parola. Affermiamo, sì. Ebbene, c'è una bellezza nella pura oggettività, così anche nell'oggetto, la bontà. E per la stessa guisa, tutte le cose che prima ci parevano innumeri, in questo secondo momento, ciascuno di questi innumeri individui lo sottoponiamo a una sola idea, idea che è unica. E la chiamiamo l'esseità di ciascuna cosa. È così. E quelle cose in numeri affermiamo che si vedono ma non si pensano. Le idee invece si pensano ma non si vedono. Senza dubbio. E con quale nostra facoltà vediamo le cose visibili? Con la vista, rispondeva. Ma allora, dissi, anche con l'udito, le cose udibili, con gli altri sensi. Tutte le altre cose che hanno rapporto col sentimento. Sì, certo. E hai mai fatto attenzione con quale immenso dispendio sia stata congegnata per opera dell'artefice la potenza della vista? Tanto se si tratta di vedere, quanto d'esser veduti. Non troppo, veramente, rispondeva. Allora sta attento. Prendiamo l'udito. Si sente, si è sentiti. E questo senso ha forse bisogno di un terzo elemento, diverso dall'udito stesso e dalla voce. Un terzo elemento a prescindere dal quale l'udito non potrà esercitare la propria funzione. La voce non potrà essere udita. Nessuno. Credo, dissi, che a nessuna delle altre molte potenze sia bisogno di qualche simile cosa. O me ne sapresti tu citar qualcuna? Io no, diceva lui. E la potenza del vedere e dell'esser veduti, non pensi tu che abbia bisogno di questo terzo elemento? Come? Ammettiamo pure che negli occhi vi sia la facoltà di vedere. Ammettiamo che chi la possiede cerchi di farne uso. Ammettiamo, infine, che nell'oggetto veduto sia presente il colore. Ciò nonostante, se non s'aggiunge un terzo elemento, particolarmente destinato a questo scopo, sai benissimo che la vista non potrà scorgere nulla e che i colori saranno invisibili. E qual è, rispondeva, questo terzo elemento? Quello, dissi, che tu chiami luce. È vero, rispondeva. Il sentimento che vede e la cosa che ha attitudine ad essere veduta furono dunque congiunti per mezzo di un termine medio di non piccola importanza, un termine che è ufficio analogo a quello dell'idea. Oh, un gioco d'unione, d'ogni altro gioco più pregevole. Certo, non è elemento disprezzabile, la luce. Eh no, prezioso veramente, esclamò. E adesso veniamo a noi. Quale tra gli dèi del cielo è signore di quell'elemento la cui luce consente alla vista di vedere in modo perfetto, consente alle cose che si vedono di poter essere percepite? Quel Dio che, rispondeva, tu e gli altri ritenete causa di questo fatto, è chiaro che intendi accennare al sole. E non ti pare che rispetto a questo Dio la vista si trovi nella seguente condizione? Come? La vista non è il sole, non lo è essa stessa, non l'organo nel quale la vista si forma, l'occhio cioè. Eh no, tuttavia l'occhio è il più soliforme tra gli organi del senso. Sì, certo, e la potenza di vedere che l'occhio ha non è forse distribuita dal sole? L'occhio non la possiede forse come infusa da altra fonte? Non c'è dubbio. E non è forse vero che il sole non è la vista, ma che il sole, causa della vista, viene anche da questa veduto? Così, disse lui. E devi credere intanto, continuai, che secondo la mia parola è questo il figlio del bene, cui il bene generò a somiglianza di se stesso. Nel mondo visibile, rispetto alla vista e alle cose vedute, il sole è ciò appunto che esso, il bene, è nel mondo intelligibile rispetto alla mente e alle cose intelligibili. Come? Domandò. Spiega meglio. Quando gli occhi si volgono a quegli oggetti, i cui colori non vengono ridestati dalla diurna luce, ma da notturno lume, sai bene che gli occhi non più discernono e che sembrano quasi ciechi. Fa l'effetto quasi che non vi sia più in quelli pura la facoltà visiva. Eh sì, rispondeva. Ma quando invece, credo, si volgono là dove il sole, brillando dall'alto, versa sua luce, allora chiaramente vedono, e la facoltà visiva in questi medesimi occhi appare presente. È vero. Così appunto devi concepire la condizione dell'anima. In lei la mente compie il suo atto, conosce l'oggetto e dimostra che nell'anima vi è una mente, appunto, quando trova sostegno in ciò su cui verità ed essere, brillando dall'alto, versano lume. Quando invece l'anima s'appoggia a ciò cui tenebra è commista, a ciò che nasce, insomma, e perisce, allora l'anima formula soltanto opinioni, e quasi la sua vista fosse divenuta debole e stanca, in su e in giù l'anima va cambiando le opinioni sue, simile a creatura che forza di mente non abbia. Par simile, sì. Ciò dunque che è capace di fornire verità alle cose conosciute, ciò che concede a chi conosce potenza di conoscere, ciò devi dire che sia l'idea del bene. E mentre devi comprendere che questa idea in quanto conosciuta, sia causa di scienza e di verità, pur ritenendo che l'una e l'altra, conoscenza cioè e verità, siano eccelse e stupende, se concluderai che lui è più eccelso e più stupendo ancora, giusto giudizio sarà il tuo. E come nel mondo visibile, giusta cosa è ritenere che luce e occhi siano soli formi, ma non è giusto ritenere che siano il sole, così anche nel mondo noetico è giusto ritenere scienza e verità l'una e l'altra buoni formi, ma non è giusto ritenere che l'una o l'altra siano il bene. Oh, assai più augusta la maestà del bene. Quale straordinaria bellezza! Produce dunque scienza e verità, ma l'una e l'altra con sua pulcritudine egli trascende. Oh, si capisce bene allora che, secondo te, egli non potrà mai essere il piacere. Non bestemmiare, esclamai, piuttosto considera con maggiore attenzione l'immagine, seguendo le mie parole. Come? Tu certo affermi che il sole non fornisce soltanto alle cose che si vedono la possibilità di essere vedute, ma concede anche il divenire della generazione, la crescita e il cibo, e il sole non è affatto il divenire. Come potrebbe esserlo? E allora devi concludere. Alle cose tutte che via via si conoscono non solo dal bene è concessa possibilità di venir conosciute, ma anche l'essere e l'esseità da quello provengono. E tuttavia il bene non per questo è essere. Oh, egli trascende interamente l'essere per maestà e per potenza. E Glaucone allora, con vivace espressione, per Apollo, che straordinaria trascendenza! Certo, risposi, ma la colpa è tua, ma hai costretto a dire tutto quello che penso. Non interrompere l'esposizione allora, se non altro almeno sviluppa definitivamente quel paragone col sole, se qualche particolare è rimasto sospeso. È un fatto, continuai, ho tralasciato molti importanti sviluppi. Oh, esclamò, non devi lasciare indietro nemmeno una parola. Credo, dissi, che purtroppo molto resterà indietro. In ogni caso, per quanto, così sul momento, si può, non trascurerò nulla, di mia volontà, almeno. Già, rispondeva. Devi dunque capire, seguitai, come stiamo dicendo, che si tratta di due entità e che l'una esercita il suo impero nel mondo intelligibile, l'altra invece nel mondo visibile. E non dico nel cielo, per evitare la sottigliezza del gioco etimologico. In ogni caso, accetti queste due categorie, il visibile e l'intelligibile. Accetto. Prendi allora un segmento AB, diviso in due segmenti diseguali, AC e CB. L'uno e l'altro devi poi dividere ancora, secondo uguali proporzioni. Tenendo presente allora un criterio di perspicuità e di chiarezza reciproca, ti risulterà che, nella sezione AC, rappresentante la specie visibile, il primo segmento AD ci dà le immagini. E per immagini intendo prima di tutto le ombre, in secondo luogo i riflessi nel seno dell'acqua, come pure tutte le immagini riflesse in corpi solidi, ma levigati e lucenti. Non mancano altri fatti similianti, se mi segui nel pensiero. Oh, ti seguo benissimo. Allora, nell'altro segmento DC, devi porre ciò cui le immagini assomigliano, gli originali, insomma, le creature intorno a noi viventi, ogni prodotto naturale e quanto la nostra industria artificialmente produce. Pongo, rispondeva. E potrai concludere allora che la sezione rappresentante il mondo visibile è stata divisa secondo un criterio di verità e di non verità. Concludere poi che il rapporto intercedente fra opinabile e conoscibile è lo stesso che intercede fra l'immagine e il suo originale. Certo, rispondeva, e senza dubbio alcuno. E ora osserva di nuovo con quale taglio si debba tagliare la regione dell'intelligibile. Come? In questo modo. Prendiamo la prima parte della suddivisione nella zona intelligibile. L'anima indaga, valendosi, quasi fossero immagini, degli oggetti che erano stati precedentemente imitati nel segmento inferiore. Il processo mentale è per via di ipotesi e l'anima, invece di procedere verso un principio primo ed evidente della cognizione, tende alle singole finali conclusioni. Vi è poi l'altra parte della suddivisione, la parte rivolta a un principio che nessuna ipotesi più richiede. Quivi, dopo le ipotesi e senza più le immagini usate nelle precedenti indagini, con le sole idee, l'anima persegue ricerca. Per mezzo di idee soltanto, l'anima compie l'intero cammino. Questo punto non troppo bene l'intendo. Ricominciamo allora, dissi. Ora potrei capir meglio, premesse ormai, queste considerazioni. Sai, credo che la geometria, la scienza del calcolo e altre simili discipline propongono ipotesi o postulati. Il pari e il dispari, le figure geometriche, le tre specie d'angoli e così via, continuando, secondo le varie discipline di cui si tratta. Su questi singoli argomenti, gli scienziati ritengono di aver cognizione precisa, pur avendone fatto soltanto ipotesi. Quindi non stimano, come se ne fossero evidenti le ragioni, di doverne esperire indagine alcuna, né per se stessi né per gli altri. Il moto speculativo prende insomma inizio da quelle ipotesi, ma il resto della dimostrazione ormai viene compiuto da questi scienziati in piena conseguenza, rivolti al punto verso il quale l'indagine s'era mossa. Benissimo, rispondeva, questo lo so. Saprai anche dunque che si valgono di figure visibili e che, basandosi su queste, conducono l'argomentazione. E non è che la cogitazione sia a quelle rivolta, certo rivolta invece agli enti di cui queste forme visibili sono immagini. In realtà, gli scienziati fanno dimostrazione e hanno di fronte alla mente, per esempio, il quadrato nella sua regione oggettiva, e così la diagonale, e su questi enti, non sul disegno tracciato davanti agli occhi, è fissa ogni attenzione. E si potrebbero moltiplicare gli esempi. E queste singole cose, capaci anche di segnare ombre e nello specchio dell'acqua immagini, queste cose che essi adoperano, sia come solidi che come disegni, di tutte queste si servono soltanto come immagini, cercando invece di vedere quelle conclusioni che per nessun altro modo è concesso vedere, se non col processo cogitativo della mente. Hai ragione, rispondeva. Io dunque chiamavo, sì, questa la prima suddivisione nella zona intelligibile, ma anche dicevo che la mente, per indagare, è costretta a far uso di ipotesi senza risalire al principio primo ed evidente della cognizione, conscia di non poter uscire fuori, oltre e più in su di ogni ipotesi. In questa fase la mente adopera. Quali immagini, quegli oggetti appunto, che producono le ombre nel segmento più basso della linea, in confronto alle quali ombre tali oggetti sono ritenuti più chiari e degni di maggior considerazione. Capisco, rispondeva, stai accennando al metodo della geometria e delle altre scienze a queste sorelle. E allora devi comprendere che cosa sia la sezione superiore del regno intelligibile. Intendo accennare a quella regione che la facoltà raziocinante da sola attinge, valendosi del potere dialettico. In tal caso, le ipotesi non si considerano più quali principi, ma veramente quali ipotesi, gradini cioè, e punti di slancio, onde pervenire a quello che è assoluto e oltre ogni ipotesi principio universo, al quale principio la ragione una volta congiunta, per reciproco contrario moto, tenendosi aderente ai principi minori che a quella aderiscono, giunge poi, con moto discendente, alla finale conclusione. E in questo processo non si vale d'alcun elemento sensibile, ma soltanto si vale di idee, di queste soltanto ultima meta considerando, e in esse idee terminando. Capisco, rispondeva. Non forse bene, mi sembra che tu voglia accennare ad operazione complessa, ma in ogni caso intuisco che la contemplazione dell'essere in genere dell'intelligibile, ottenuta per via di scienza dialettica, è più chiara di quella ottenuta per mezzo di singole altre scienze. Esse debbono assumere i postulati quali principi, eppur essendo addotte a far uso di una cogitazione, e la loro contemplazione non svolgendosi certo per via di oggetti sensibili, tuttavia i loro cultori non salgono fino a contemplare il principio primo ed evidente, ma la visione si svolge intera, derivando da ipotesi e da postulati. Per queste ragioni, secondo la tua visione, i cultori di queste scienze non giungono alla chiarezza di un atto mentale di pura intellezione, quantunque tali conclusioni dipendano pur sempre da un principio primo, per la presenza del quale esse sono rese intelligibili. E ho l'impressione che tu voglia chiamare dianoetico o cogitativo il metodo della geometria e delle altre scienze affini, inferiore tuttavia pur sempre all'atto mentale limpido e consummante della verità. Tu ritieni infatti che la forma dianoetica del pensiero sia qualche cosa di intermedio tra la mera opinione e la noesi, o atto mentale puro e consummante della verità. Dissi, hai perfettamente inteso. E quindi, sotto le quattro sezioni della nostra linea, tu mi devi far corrispondere altrettante condizioni della nostra attività mentale, noesi o atto mentale puro e consummante della verità, rispondente alla sezione più alta e sublime, dianoia o cogitazione alla sezione seconda, alla terza dà il nome di fede o persuasione, alla quarta il nome di affigurazione. Devi, da ultimo, disporle secondo proporzionale ordine, in modo che al rapporto della loro verità corrisponda anche un grado proporzionale di chiarezza. Capisco, concluse, concedo senz'altro e dispongo in modo conforme al tuo criterio.